24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Roberta Pinotti, genovese, sposata con due figlie, laurea in lettere, insegnamento negli istituti superiori, deputata, poi ex presidente della Commissione Difesa della Camera, ministro della Difesa del governo Renzi. Oggi è la prima donna che fa scattare sull'attenti i generali. Maratoneta, si allena nel tempo libero, intanto pensa a come rifare l'esercito italiano e ha realizzato il suo libro bianco per riformarlo e spera di convincere gli europei a fare insieme la difesa comune. Intanto però rischia di portare in combattimento in Iraq i tornado italiani come è stato nella notte tra il 17 e il 18 gennaio del 91. Questo il contenuto della scatola nera di quel tornado di Bellini e Cocciolone, i due piloti catturati all'epoca dagli iracheni dopo l'abbattimento del loro velivolo. Stiamo ritornando. 2 miglia. Poi vediamo inbound al target. 276. Stabilizzo di così, 200 piedi, ok, sei inbound, vai così, livella, livella, ok, vai, fai passo, 200 così, tutta calma, giaffa, sto ceffando, vai così, giaffa al massimo, sto ceffando, tutta calma, vai più, i motori sono buoni, 130 piedi, 120, vai così. Eccoli lì, sono saltati. Ministro Pinotti era Cocciolone, abbiamo detto che quello è stato abbattuto durante la guerra del Golfo. Ripartiamo da qui? Noi siamo già presenti in Iraq per la guerra contro l'ISIS, e perché pensiamo che l'ISIS vada fermato, certo, e che sia un pericolo anche per noi, non soltanto per i territori in cui, ecco, si espande. Ci siamo, e per esempio in quest'ultimo decreto missioni noi aumentiamo i nostri uomini presenti, mandiamo 100 carabinieri in più. Quindi in realtà fare tutta la discussione se siamo o non siamo in questa battaglia sul fatto, cioè, se i nostri tornado invece che fare ricognizione poi arrivano a fare altre operazioni è molto riduttivo. Noi ci siamo, ma quante probabilità abbiamo? Principale che ci è stata fatta è di avere più carabinieri. Ecco, ma quante probabilità abbiamo di entrare in azione con i tornado? Allora, ci sono stati in passato molte operazioni che l'Italia ha fatto utilizzando i propri caccia. In questo momento, per quello che valutiamo essere le esigenze in Iraq, non è una scelta che il governo italiano ha fatto. Quindi possiamo dire ci siamo anche noi, ma la guerra non la facciamo. Combattiamo l'ISIS con convinzione. Senza bombardare con i tornado. A proposito di cose però a cui credere o non credere, senta che cosa ci diceva lei nel giugno del 2014 a proposito dei due Marò. Ogni militare deve sapere di essere tutelato dalle proprie immunità. Allora, ministro Pinotti, immunità funzionale di cui parla Girone, perché per loro non vale? Il punto dell'immunità funzionale è quella su cui questo governo ha puntato tutta la sua nuova strategia. Ecco, ma se fossero due Marines invece che due Marò, sappiamo tutti che sarebbero già stati portati via, lo sanno? Ma da questo punto di vista anche noi porteremo via i due Marò. Ecco, due Marò non li abbiamo portati via, sono ancora là. Intanto no, uno in Italia. Vabbè, okay. Però c'è e non è più tornato. E per il secondo io riprendo quelle parole e continuo a dire porteremo i Marò in Italia. Certo, i tempi sono molto più lunghi di quelli che avremmo di voluto, che speravamo. Però vorrei ricordare allora, che prima di questo governo, diciamo, è stata per tanto tempo diversa la strategia, cioè l'Italia aveva accettato il giudizio in India. Oggi invece noi diciamo un passo avanti è quello, certo, insomma. No, ma c'è un passo avanti importante che però devono sapere coloro che ci ascoltano. Si è pronunciato il Tribunale del Mare, ha detto che l'India non ha diritto di giudicare i nostri Marò, e ora noi aspettiamo il giudizio del Tribunale di Amburgo, dell'arbitrato, e pensiamo che le nostre ragioni siano molto forti. Torniamo alla Siria. All'ONU sembrava che Putin e Obama collaborassero. Adesso sembra meno vero, bombardano ognuno per conto suo. Ma sono i politici o i militari che non vogliono questa collaborazione? C'è in questo momento un po' un gioco delle parti, diciamo, fra gli Stati Uniti e la Russia, dove a volte le dichiarazioni pubbliche non corrispondono a quelle che poi sono delle trattative che invece fortunatamente dietro continuano ad esistere. Si collabora. Io ritengo che sia così incredibile e insensato non immaginare che si fa tutti insieme una coalizione per combattere il terrorismo fondamentalista, che pur con le varie punture, a volte più che punture di spillo che ci sono, si arriverà ad un punto, ecco, di Siria, condivisione. In Siria, ministro, però già una volta Obama voleva bombardare, ma Putin e il Papa l'hanno fermato. Secondo lei hanno fatto bene in quel caso? Guardi, anche oggi il tema della Siria è che se tu non hai l'idea della transizione politica, di che cosa succede dopo, bombardare in sé per sé non serve a niente. Certo, è sempre così. Rifacciamo la e Libia. Sono i militari i primi a dirtelo. Ah. Non serve a niente l'uso della forza se non hai, diciamo, un prima e un dopo e un perché. Ecco, ma allora lei lo vede vicino o lontano questa soluzione politica per l'uscita di Assad, perché di questo si tratta? C'è stato uno stallo che è durato 4 anni e mezzo, che è costato più di 200.000 vittime in Siria, una cosa terribile. Ma che mi cosa pare lo che può rendere più facile? Mi pare adesso che oggi ci sia più comprensione che la transizione è necessaria. Con questa in questa transizione Assad non potrà essere il futuro della Siria, ma in ogni caso che da quella che è la situazione in atto attuale bisogna partire. Senta, ma in questa vicenda che riguarda il Mediterraneo, cioè l'Italia, noi, l'Italia sembra non avere un ruolo significativo, perché? Guardi, non è vero, perché anche tutto quello che sta avvenendo nel Mediterraneo, noi abbiamo presente la missione Mare Sicuro, che è nostra, diciamo, italiana, e siamo comandanti, diciamo, abbiamo il comando della missione europea UNAFOR Med. Nel Mediterraneo noi ci abbiamo portato l'Europa e questo è stato importante, ma l'iniziativa è stata italiana. Senta, però noi promettiamo, abbiamo promesso, il Presidente del Consiglio l'ha fatto, di aumentare i nostri contingenti impegnati nelle missioni di pace, ma in cambio di che cosa? Beh, noi abbiamo offerto all'ONU sì una serie di competenze che abbiamo. E anche uomini. Certo. Però ma in cambio di cosa? In cambio di cose, in queste situazioni, diciamo, la credibilità internazionale è una cosa che è difficile pesare, ma che in realtà poi possono quantificare i nostri imprenditori quando si muovono nel mondo, la capacità dell'Italia di essere presente, l'accoglienza che abbiamo anche per quello che riguarda la possibilità di export italiano nei vari paesi. Senta, sono 26 le nostre missioni all'estero, sono tutte necessarie? Noi le abbiamo ripulite, abbiamo guardato a fondo quelle che sono non ancora servono 26 o no? E queste sono necessarie, sono quelle che abbiamo messo nel decreto. Alcune sono missioni pesanti, altre sono missioni a volte con uno o due osservatori, bisogna ecco, fare attenzione. Ma per esempio, per essere concreti, ministro Pinotti, per un italiano, un cittadino normale, è difficile capire che è importante avere dei nostri soldati, per esempio, in Mali, no? In Mali, diciamo, sono stati pochissimi, ma in realtà invece credo che i cittadini capiscano che oggi l'Africa è il centro del problema, perché tutto quello che sta avvenendo nel Mediterraneo, anche gli immigrati che arrivano, in realtà nascono da situazioni che dentro l'Africa purtroppo vanno maturando. Ma allora, senza risolvere l'Africa non risolviamo neanche i problemi italiani. Ma se nelle prossime settimane, a proposito di questo, la comunità internazionale decidesse un intervento diretto in Libia, la missione sarebbe a guida italiana? La comunità internazionale riconosce la leadership italiana per quello che riguarda la Libia, per i legami storici e per le conoscenze, e anche perché i libici stessi, diciamo, individuano nell'Italia quella che può essere l'interlocutore principale. Ovviamente va prima fatto il passaggio della governo che devono i libici decidere di avere unitario, certo. E poi l'Italia è pronta, ecco, a essere in prima fila a dare una mano. In Libia però c'era un uomo che poteva mediare positivamente tra le parti, era Romano Prodi. Chi è che non l'ha voluto? No, ma in genere all'ONU è difficile che nominino un inviato speciale di un paese che ha avuto un passato coloniale. Romano Prodi è una persona straordinaria che conosce molto bene l'Africa, ma il fatto di avere l'inviato italiano non è che determina poi il peso che si può alla fine una tedesco in Siria, per esempio. In Siria però è un italiano, ma non mi pare che su questo però poi si giochino le questioni. Senta, l'attivismo francese nel Mediterraneo ha fatto danni di ogni genere in Libia e ha fatto degenerare anche in qualche modo le primavere arabe, ma a Bruxelles c'è la consapevolezza di questo? Beh, direi di sì. Oggi effettivamente molti paesi, quando parlano dell'intervento in Libia, si rendono conto che quel tipo di intervento ha scatenato una situazione che oggi dobbiamo ricucire. Ecco, ma in questo quadro strategico l'Europa può immaginare di avere un ruolo senza avere un esercito comune? No, l'Europa ci deve lavorare all'esercito comune. Ecco, e deve cominciare a farlo con molta più determinazione. Oggi anche gli strumenti per farlo sono ancora troppo deboli. Certo. Senti, molti pensano che in Siria, senza una nuova Yalta, diciamo così, il problema non si risolve. Ecco, se Roosevelt e Churchill si sono messi d'accordo con Stalin per battere Hitler, ma come si fa a non allearsi con la Russia per battere l'ISIS? Io faccio il tifo perché questa cosa succeda, e come Italia abbiamo sempre cercato, anche laddove ci sono stati momenti di tensione più forti, di riportare il fatto che senza anche un dialogo con la Russia le crisi principali non si risolvono. Senta, ma se bisogna fare accordi con la Russia, per essere concreti, si può continuare ad avere sanzioni contro la Russia? Ci sono state, diciamo, delle decisioni europee che l'Italia ha mantenuto, ma dentro a questa solidarietà europea che va mantenuta, lo ricordo a tutti, l'Italia è stata quella che con più forza ha ricordato che la Russia non può diventare il nemico. Insomma, vanno abolite queste sanzioni? Da questo punto di vista ci sono delle decisioni che vengono prese insieme, spettano ai ministeri degli esteri. Nei mesi scorsi l'ISIS ha conquistato Ramani, Palmira, attaccato Kobane, però lei ha detto che non è vero che l'ISIS sta vincendo, ma ci vuole una contronarrazione, cioè la guerra si vince non con le armi ma con l'informazione. Questa guerra si vince con tanti livelli, che è a livello anche di comunicazione e anche, tra virgolette, di contropropaganda. Noi vediamo come loro cercano di acquisire, e ce la fanno, foreign fighter con una propaganda terribile, molto di morte, forte, ma che riesce ad avere degli costruita effetti. Costruita in modo hollywoodiano. Noi dobbiamo, però, attraverso i nostri alleati dei paesi islamici, costruire un racconto diverso di quello che l'Islam vuole per il suo futuro. Ecco, racconto diverso, però in realtà contro l'ISIS tutti bombardano un po', ma nessuno per davvero. Senta i numeri. Numeri che ci dicono quanto scarso sia stato l'impegno della coalizione nei termini di bombardamenti aerei in questo anno. In totale si sono effettuate, i paesi della coalizione, 6.800 incursioni aeree, al 95% portate a termine da velivoli statunitensi, circa un terzo in Siria e il resto, i due terzi, in Iraq. Per intenderci, questo si è fatto in un anno. In Kosovo, solamente in Kosovo, in appena due mesi di guerra contro la Serbia, nel 1999, le missioni di attacco furono 38.000. Allora gli aerei da combattimento impiegati furono 600, in questo caso quelli schierati sono poco più di un centinaio. Quindi sostanzialmente l'ISIS non lo vuole combattere concretamente nessuno? Beh, solo a parole. Ecco, era Gaiani, il direttore della rivista Analisi Difesa. Quindi, parole per adesso prevalenti. Io credo che la lotta contro l'ISIS vada intensificata, ne sono convinta che sia una battaglia importantissima. Nello stesso tempo, quello che io conosco perfettamente, perché sono andata a vedere come i nostri fanno ricognizione, è che lì si tratta di situazioni in cui i terroristi si infiltrano con la popolazione civile. Allora, certo, non è che si possono fare operazioni, certo, a tappeto. Se si vuole colpire il terrorista laddove si infiltra, devi fare riuscire, e riuscire anche a identificare le situazioni, i luoghi. Però, quindi non è così semplice. Questo e soprattutto evitare qualsiasi vittima civile, io penso che sia naturale, un obiettivo, però dal punto di vista politico, fondamentale. Però dal punto di vista politico, senta Sergio Romano, professor Romano, che rincara la dose da questo punto di vista, senta qua. Vede, l'ISIS in quella faccenda siriana è al tempo stesso il nemico di tutti, il potenziale alleato di tutti, perché tutti hanno un altro nemico e quell'altro nemico lo considerano prioritario. Cioè, ognuno fa il doppio gioco. Insomma, un doppio gioco per tutti, un po' è vero. Beh, non c'è dubbio che, diciamo, se non siamo stati ancora così forti come dovremmo essere nella battaglia contro l'ISIS, quelle che sono state, il modo di guardarsi delle diverse potenze regionali e non per capire come a seconda del posizionamento potevano poi avere un ritorno, certamente. Ecco. Senta, lei era pacifista, potrebbe ordinare, l'abbiamo detto prima, potrebbe ai nostri aerei di bombardare. Ecco, questa conversione l'ha prodotto dei problemi interiormente? Beh, ho lavorato, perché per me all'inizio era molto difficile proprio ragionare sui sistemi d'arma. All'inizio, per me, in commissione difesa, votare su questioni che riguardavano le armi era un problema di coscienza. E cosa l'ha convinta? E un colloquio che ho avuto con Michelle Bachelet, l'attuale presidente del Cile, che allora era ministro della difesa, e essendo venuta in commissione gli ho detto: ma lei, che è una donna di sinistra, una storia con il padre che ha lottato a fianco di Allende, come fa a impersonare questo ruolo? E lei mi dice: guarda, io come ministro della difesa mi sento ancora più forte nelle mie richieste di quando ero ministro della salute, perché la difesa è una delle componenti fondanti dello Stato e lo Stato deve avere l'uso della forza, e in questo quindi io si sente legittimata. Io su quella frase ho ragionato e ho fatto un percorso. Senta, ministro Minotti, la festa della Marina pochi giorni fa si è parlato molto dell'opera solitaria delle navi italiane nel Mediterraneo. Può continuare questa opera di supplenza anche dopo aver superato Mare Nostrum? Devo dire che noi siamo stati per lungo tempo soli, ma adesso non lo siamo più. E su questo, diciamo, c'è stato un lavoro importante. C'è sempre Mare Sicuro, ma in EUNAVFOR Med adesso più paesi di quanto ci saremmo aspettati stanno fornendo delle navi. Da questo punto di vista credo che sia importante aver portato l'Europa nel Mediterraneo. Ecco, però è vero che è stato necessario addirittura inventare una sorta di rete per recuperare i cadaveri in mare? Sì, tanto sono. È una sorta di, di gabbia metallica, cioè di rete metallica, diciamo, per riuscire a riportarli e poter dare una degna sepoltura. Ecco, ma da quando anche la Merkel ha aperto gli occhi sull'immigrazione, soprattutto per quella siriana, in Europa è cambiato davvero qualcosa oppure no? Io vorrei che non si andasse, diciamo, a corrente alterna e a seguito di emozioni particolari, perché c'è la foto del bambino morto, cioè, e là ci commuoviamo tutti e tutti ci muoviamo, e poi, poi però c'è il problema di come distribuiamo le quote e di come siamo solidali su questo, e ci si ferma. Lentezza. Ci vorrebbe un percorso che non sia soltanto mosso dall'emozione, ma insieme all'emozione metta il ragionamento e la decisione. Ecco, però una cosa nuova in realtà c'è. I paesi dell'est, invece di accogliere, alzano muri, barriere, steccati. Ma si possono concertare delle politiche comuni europee con questi paesi? Ed è abbastanza incredibile che proprio i paesi che hanno avuto più recentemente la solidarietà dell'Europa, a cui si sono aperte le porte, non abbiano nessun atteggiamento che ne faccia comprendere le esigenze degli altri. Ma allora l'Europa c'è in realtà, a che cosa serve? Però attenzione, anche su questo molto più lentamente di come vorremmo, però da atteggiamenti iniziali in cui la chiusura era totale. Io ricordo che un anno e mezzo fa dire che bisognava superare Dublino era una parola impronunciabile in Europa. Oggi ci siamo arrivati. Allora, anche per questi paesi più riottosi, io penso che se c'è la solidarietà di grandi paesi, come oggi sta venendo dalla parte della Germania e della Francia, si riesca a superare l'impasse. Ecco, però intanto anche il Papa ha impegnato la Chiesa nell'accoglienza ai profughi. Senta qua. Di fronte alla tragedia di decine di migliaia di profughi che fuggono dalla morte per la guerra e per la fame e sono in cammino verso una speranza di vita in prossimità del Giubileo della Misericordia, rivolgo un appello alle parrocchie, alle comunità religiose, ai monasteri e ai santuari di tutta Europa ad esprimere la concretezza del Vangelo e accogliere una famiglia di profughi. È un segnale importante o è demagogia? No, è un segnale importante. Cioè, senta, la Merkel, a proposito, ha detto che lei non accoglierebbe una famiglia in casa sua. Lei l'accoglierebbe? Ma io sì, e sono sicura che anche le mie figlie sarebbero contente. Il problema è che dovrei chiederla a mio marito, perché poi chi rimane a casa in realtà è molto più lui di me, quindi se vuole alzo dopo il telefono. Lo chiamiamo. Adesso, per fare quello che il governo Renzi dice di voler fare con la legge di stabilità, servono più o meno 27 miliardi, cioè servono molti tagli. Voi la difesa quanto taglierete? La difesa ha tagliato moltissimo in questi anni e sta tagliando in uomini e strutture. Dovrà tagliare come ancora? Nessun'altra pubblica amministrazione sta facendo. Stiamo parlando di 50.000 tagli da qui al 2024. E stiamo parlando di centinaia e centinaia di strutture. Insomma, su questi 27 miliardi lei quanti ne dà? Noi abbiamo dato negli ultimi 10 anni contributi che hanno ridotto del 26% il bilancio della difesa. Non mi vuol dire quanto, no, quanto gli dà. Stiamo lavorando sulla legge di stabilità, quindi non le rispondo. Non mi risponde. Ecco. Non indebolisco la mia posizione dando una risposta. Nella contrattazione, ecco, ma che cosa la convince di più di Renzi? Guardi, Renzi ha coraggio da vendere, determinazione notevole, un intuito eccezionale e ha un grande senso della forza di questo paese. Vabbè, è di meno, ci avrà qualcosa. Guardi, a volte un eccesso di fiorentinità. Lo scambio di battute più feroci che abbiamo avuto ieri è stato su Sampdoria e Fiorentina. Cioè, quindi quando viene fuori la fiorentinità diventa difficile da trattare. Ecco, ma ci racconta un paese che c'è o un paese che non c'è ancora, Renzi? No, racconta un paese che c'è e che deve essere sviluppato. Molte volte ne guardiamo soltanto le negatività dell'Italia, invece ci sono tante cose positive che vanno incoraggiate perché possano aumentare. Senta, ma è soddisfatta del libro bianco che racconta la riforma della difesa? Sì, sono molto soddisfatta. Di cosa di più soprattutto? Sono soddisfatta del fatto che è il compimento di un percorso importante che da Andreatta in poi la difesa sta facendo, ed è finalmente l'idea di avere forze armate con un passaggio ulteriore, più interforze, quindi più efficienti, più giovani, più capaci di agire in diverse situazioni, senza eccessi o senza ridondanze che non sono più utili. Ecco, un ufficiale che ha lavorato alla stesura del documento ha detto che le forze armate dovranno essere come un decatleta, cioè magro, scattante, flessibile, cioè esattamente perché l'esempio vuol dire che noi dobbiamo ridurre i numeri, e questo lo stiamo facendo, dobbiamo pensare di avere più giovani e meno persone che fanno militare per tutta la vita. Ma... e dobbiamo essere capaci di agire in teatri molto diversi, perché oggi vediamo che non c'è più il teatro convenzionale, ci sono situazioni diverse in cui dobbiamo, che richiedono quindi interventi diversi e quindi specializzazioni precise, senza pensare di dover fare tutto. Senta, ma mi fa un esempio concreto di una caserma che è stata riconvertita o di un faro che è stato trasformato in albergo? No, perché sennò sono sempre... C'è un meraviglioso faro a Capo Spartivento che è stato trasformato in un resort stupendo. Va bene. Bene, ma uno è quello che è già finito, ma invece sono 500 quelli che noi abbiamo messo in disponibilità di enti locali oppure di privati, a seconda delle situazioni. Ma le forze armate sono uno strumento di integrazione per i nuovi italiani che comunque arrivano? Beh, nelle forze armate si entra come in ogni ufficio italiano, cioè si entra comunque se si ha la cittadinanza italiana. Sì, questo certo. È un dal punto di vista. No, ma io dico per i nuovi italiani. Però noi abbiamo molti, diciamo, in anche figli adottivi o comunque cittadini italiani che vengono da altre nazioni che stanno facendo servizio nelle forze armate, e c'è un ottimo strumento di integrazione. Senta, ma lei sogna meno generali, più soldati in grado di operare, così ho capito? Sì, anche perché noi abbiamo avuto sempre una testa troppo grande rispetto a un corpo che via via si è rimpicciolito. La testa è rimasta come quando avevamo numeri, diciamo, più del doppio. Noi abbiamo bisogno quindi di rimpicciolire la testa, cioè, di farla proporzionata. A casa un po' di generali. E di farla proporzionata col corpo. Vabbè, questo non lo dice, ma lo pensa. Senta, ma passare da un esercito di leva a un esercito professionale è stata una scelta giusta, secondo lei? Sì, è stata una scelta giusta, perché oggi, per quelle che sono le situazioni di conflitto, un esercito di leva non ti darebbe la competenza e la professionalità per poter gestire queste situazioni. Quindi faresti fare questa esperienza, ma che in realtà non potresti mai portare nelle esigenze di conflitto che oggi... Pensi ai soldati di leva in Afghanistan o anche in Iraq, lei non se li può immaginare. Certo, ma costa di meno o di più? No, costa diverso, nel senso che... Vabbè, ma alla fine 120. No, nel senso che costa diverso perché oggi hai comunque tutti i professionisti pagati, prima però avevi dei numeri, diciamo, più del doppio, e da questo punto di vista, quindi alla fine noi stiamo riducendo il costo della difesa. E ritorniamo alla trattativa, al tavolo della trattativa, va bene. Senta, ma alla fine... Questo io devo dire, poi questi professionisti vanno pagati, quindi appunto, e fanno anche un lavoro pericoloso, quindi... Quindi è giusto che abbiano una retribuzione adeguata. Senta, alla fine gli F-35 li comprate o no? Il Parlamento ci ha detto di andare avanti nel programma, ma cercare di ridurre quello che è l'impatto economico e vedere le criticità del programma. Ma servono da questo davvero? Punto di vista, ma noi su questo stiamo lavorando. Servono se vogliamo avere l'aeronautica, nel senso che possono essere gli F-35, possono essere altri modelli. Nel 98 l'Italia ha deciso di entrare in questo programma, quindi di entrarci come coproduttrice. Il tema quindi non è se è quel modello o l'altro modello. L'Italia allora ha deciso così, e adesso ricominciare da capo sarebbe un po' sciocco. Però quindi la domanda vera è: serve l'aeronautica oppure no? E secondo lei serve o no? Sì, io penso che serva, se vogliamo continuare a partecipare, a parte che l'aeronautica fa moltissime funzioni anche nel nostro paese fondamentale, e se arrivano gli astronauti ad avere i successi che hanno è perché passano dal percorso dell'aeronautica. Poi, se vogliamo essere in alcune missioni, certe volte può servire che i nostri siano protetti dalla copertura aerea. Senta, ministro Pinotti, ma è vero che lei si è lanciata col paracadute insieme ai ragazzi da Folgore? Eh? Sì, è vero. È vero? Sì. Ma si era mai lanciata prima? Mai. Ha avuto molta paura? L'ho gestita bene. Nel momento in cui si apre si abbassa lo sportello dell'elicottero e si vede 4.500 metri sotto, uno si domanda: ma perché l'ho fatto? Poi però l'esperienza è bellissima. Ma si è fatta dare una spinta? Eh? No. Ho deciso di farlo. Perché l'ho gestita. In quel momento la paura mi ha preso, ma l'ho gestita. Senta, ma essere donna e comandare tanti generali cosa significa? non so, non è una domanda che io mi faccio, nel senso che non vivo questo ruolo sul fatto di essere donna o uomo. So che devo, che ho questa responsabilità politica e non mi faccio intimidire. No, speciale. Non mi fa nessun effetto. Senta, un'ultima cosa le voglio chiedere. Lei ha due figlie. Le piacerebbe che facessero i militari? Guardi, io penso che per i figli bisogna capire che cosa vogliono fare loro, quindi non ho mai provato a immaginare, neanche il medico piuttosto. Va bene, che... avrete parlato? Beh, diciamo, sicuramente la grande non ha proprio lo spirito. No. La piccola potrebbe essere più idonea. Grazie. 800 24 00 24 il numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Pubblicità. State ascoltando un programma offerto da ADHR Group, agenzia per il lavoro, multisoluzioni per le tue risorse umane. Mix 24. Allora, Pietrangelo, ecco. Oggi Mario ci ha lasciato, facciamo da soli. Senti, il titolo per Faccia a Faccia? Partendo dall'argomento più croccante, che è quello degli F-35, il titolo è uno solo: chi vola vale. Chi vola vale, però dice che forse bisogna abolirla questa aeronautica, ma insomma, tantissimi sms che soprattutto segnalano la soddisfazione del taglio dei generali. Mi è sembrato che questo fosse l'argomento principale. 800 24 00 24 per le telefonate, 349 238 6666 per gli sms. Pietrangelo, cosa ascoltiamo oggi? D'Annunzio montò a cavallo con fanatismo futurista. Quanta passione per gli aeroplani e per le bande legionarie. Che scherzi gioca l'uomo la natura. Mi dia un pacchetto di Camel senza filtro, una Minerva. È una cronaca alla radio, dice che è una punta attacca, verticalizzando l'area di rigore. Ragazzi, non giocate. E oggi a chi la dedichi questa canzone? Ma non sono io a Qual dedicare, sono gli altri. Qual quelli che signora? Mi chiamano e mi dicono, mi chiedono. A volte sono anche le signore a chiamare per fare le dediche. Molto ai signori. Spesso si capisce. Allora, stamattina è successo che c'erano dei frusci, sentivo dei rumori dalla cornetta del telefono, perché ho risposto appunto dal centralino, quindi ascoltavo, cercavo di decifrare, si sentivano aerei in volo, e appunto chi vola vale, e poi il chiasso delle orde, clangore di spade. Ho avuto il dubbio che fosse Michele Strogoff oppure Marco Polo, ma ancora una volta lui, il comandante Gabriele D'Annunzio. Questa canzone, Venezia Istanbul, per Scheherazade. In questi giorni si discute moltissimo su quello che sta capitando al Sinodo. Sandro Magister, che è il vaticanista dell'Espresso, ha pubblicato una lettera di contestazione che è stata scritta al Papa da 13 porporati in occasione del Sinodo, lettera che naturalmente lui ha avuto un'esclusiva, che è uscita. Ecco, Sandro Magister, può spiegarci in due parole che cosa rappresenta il Sinodo storicamente? Il Sinodo è stato inventato durante il Concilio Vaticano II e messo subito in pratica dopo la fine di questo concilio. Lei ha parlato però in concreto di una lettera di 13 cardinali che criticano il Papa, quindi questa lettera esiste? Certo che esiste, ecco. È stata anche Padre Lombardi ha praticamente assunto come un dato di fatto l'esistenza di questa lettera, firmata da un numero nutrito di cardinali. Ecco, nutrito, quattro cardinali hanno ritirato le firme, così? Sì, quattro cardinali hanno ritirato le firme rispetto a un primo elenco che io stesso avevo messo in rete. Ma e perché hanno firmato e poi ritirato? Si sa. Non hanno firmato e ritirato, no, questi non hanno firmato. Da quello che risulta non hanno firmato, è impreciso quell'elenco ed è stato integrato successivamente da altri cardinali che invece appunto hanno riportato il numero complessivo ai 12-13 attuali. Ecco, anche la rivista America però dei Gesuiti conferma, aggiunge altri quattro nomi alla lista. Sì, sono esattamente quei quattro nomi che sostituiscono quelli che in una lista più sicura, più rispondente al vero, quelli che il giorno precedente avevano dichiarato di non aver firmato. Ecco, ma una rivista dei gesuiti, quindi vuol dire che proprio... Non solo una rivista dei gesuiti, ma una rivista dei gesuiti progressisti. Ecco, ma questa lettera autentica, quali sono le accuse, diciamo, le nuove procedure che hanno un'influenza eccessiva sulle delibere, è questo? Sì, esattamente, la lettera verte tutta sulle procedure, ma attenzione, le procedure sono qualcosa di veramente decisivo per orientare una grande assemblea come il Sinodo. Ecco, ma il Papa... Non è quello che si aspettava con la sua richiesta ai cardinali in apertura del sinodo di parlare con franchezza? Quindi da una parte si vuole parlare con franchezza, dall'altra parte si cerca la segretezza, non ho capito. Sì, sono due cose un pochino contraddittorie da un certo punto di vista, ma che il Papa invece ritiene tra loro funzionali, perché il Papa è convinto, l'ha detto, che l'assicurare un maggior vincolo di segreto al dibattito interno all'aula consente ai pari di parlare più apertamente. Poi questo naturalmente Però allora non doveva uscire la lettera, diciamo. Ma propriamente la lettera era una lettera data privatamente al Papa, personalmente a lui, non era vabbè, qualcuno che gliel'ha data privatamente poi l'ha fatta uscire, perché se lei l'ha avuta qualcuno degli autori ovviamente l'ha fatta uscire naturalmente. Una settimana dopo la consegna. Però va anche detto che i contenuti della lettera sono stati anche oggetto di interventi orali identici a quello che c'è scritto nella lettera da parte di uno dei suoi principali firmatari, cioè il cardinale Pell. Che poi il cardinale Pell è stato nominato da Papa Bergoglio capo delle finanze del Vaticano. Certo, è un cardinale. Quindi molto autorevole. Sì, molto autorevole, e che sul quale Papa Francesco ha scommesso in modo molto energico, chiamandolo da Sydney, dove lui era arcivescovo, dall'Australia, per pilotare questo riordine, questa riforma. Quindi o c'è una grandissima libertà nella Chiesa o c'è un po' di contraddizione? Ma la libertà della Chiesa, secondo me, a mio giudizio, c'è come, tant'è vero che la si percepisce anche in questa... Appunto, questo volevo dire. Nella capacità di questi scontri. Quello che in questo momento non è chiaro è la direzione di marcia che questa vivacità può produrre. Questa comunque 13 è molto legata all'esito del sinodo stesso. Ecco, ma 13 cardinali comunque sono una minoranza, quindi la maggioranza vuol dire che sta col Papa. No, direi di no. I 13 cardinali sono espressione di una maggioranza che condivide le loro stesse posizioni e che a occhio e croce io non esito a stimare nei 2/3 dell'assemblea sinodale. Ah, 2/3 dei sinodo è contro il Papa? Non è contro il Papa, diciamo che resiste a delle innovazioni che ritiene non rispettose della dottrina della Chiesa. Nonostante sia un sinodo pastorale e non dottrinale. Eh sì, infatti il Papa l'ha anche detto che... Fa una bella differenza. Certo, che anche nella sessione precedente non è mai stata toccata la dottrina. Questo però è qualcosa che effettivamente viene contestato da diversi padri sinodali, che ritengono che la dottrina in certe azioni pastorali viene di fatto smantellata. Magister, il sinodo si concluderà il 25 ottobre. Lei crede che ci sarà un documento finale a questo punto? Un documento finale ci sarà sicuramente. La battaglia che è in corso è sulla modalità e sulla forma di questo documento finale. Quello che temono i padri conciliari, i padri sinodali che hanno firmato la lettera e che anche in aula sostengono queste tesi, è che il documento finale sarà lungo, macchinoso, discorsivo, molto difficile da votare, se non accettandolo in blocco, è cosa ancora più difficile. E quindi favorevole a includere anche delle formulazioni un po' vaghe, un po' ambivalenti, che sono invece l'obiettivo, si dice, dei novatori, che non puntano ad avere un risultato eclatante. Ma poter interpretare delle parole vaghe. Come già era stato tentato e fatto nel sinodo dell'anno scorso, di introdurre nelle formule poi votate da tutti delle ambiguità che poi naturalmente consentono una pluralità di comportamenti all'interno della Chiesa. Ecco, Magister, un'ultimissima cosa, ma nel processo di rinnovamento della Chiesa, dopo tutto quello che ha detto, sembra che sia necessario allontanarsi un po' da Roma? Ma certamente, questo diciamo che è uno degli elementi sicuramente validi, se soltanto si osserva la geografia, il paesaggio mondiale della Chiesa, che è una Chiesa per esempio in clamoroso declino in Europa ed è una Chiesa in clamorosa espansione in Africa. Appunto, ecco. È la Chiesa allora, che Papa Bergoglio rappresenta in primis. Ma se il futuro della Chiesa è per esempio nel vigoroso cattolicesimo africano, se uno va a vedere in sinodo che cosa rappresentano i vescovi e i cardinali africani, noterà che tutti, praticamente tutti, sono contro le innovazioni. Beh, incredibile, questa ultima affermazione di Magister fa riflettere moltissimo. Perché la Chiesa africana è quella che maggiormente la nuova vive la realtà. A differenza, forse è la nuova Chiesa più che altro. Però è vicina alla verità della vita, quindi non ha le sofisticherie del mondo, diciamo così, emancipato secondo i parametri della modernità. Comunque è un dato molto interessante sul quale sicuramente si dovrà riflettere molto. Salamino! È la storia a decidere dell'attualità, ma, e tu Giovanni lo insegni, l'attualità è quella che revisiona la storia e l'adatta al realpolitik. Gatta tutta da pelare, quella di Enrico Catanzaro, giudice della prima sezione civile del Tribunale di Palermo. Perché da un lato c'è Alfio Caruso, giornalista, autore di Da cosa nasce cosa, e dall'altro invece... dall'altro appunto niente meno che Sergio Mattarella e con lui i nipoti Bernardo Junior e Maria, che sono in causa contro Caruso e contro l'editore Longanesi per avere infangato la figura di Mattarella padre. Che cosa è successo? Certo. Nel libro Caruso parla di frequentazioni mafiose del vecchio Bernardo Mattarella, ex ministro democristiano. Il Partito Comunista a suo tempo si fece carico di una violenta campagna contro il padre dell'attuale capo dello Stato, che oggi invece è un beniamino degli eredi di quel PC. E nel 1965 Danilo Dolci, sociologo nonché intellettuale organico al partito, si fece carico di un dossier sul vecchio Mattarella, a cui fece seguito una condanna per diffamazione. Allora è sempre l'attualità a decidere della storia. E la gatta è tutta da pelare. Gli eredi del PC oggi, sotto le bandiere di Matteo Renzi, sorvolano sulla questione che, a dirla tutta, affonda le proprie radici nella irrisolta questione della trattativa Stato va da sé, mafia va da sé. La famiglia Mattarella, oltretutto, ha anche consegnato con Piersanti, già presidente della regione, una vittima sull'altare della lotta alla mafia. E dopo aver soggiornato a lungo nella letteratura e nel cinema, la mafia... Io divido l'umanità in 5 categorie. Ci sono gli uomini veri, i mezzi uomini, gli ominicchi, poi mi scusi, i ruffiani. E in ultimo, come se non ci fossero, i quacquaraquà. Sono pochissimi gli uomini, i mezzi uomini pochi. Già molti di più gli ominicchi. Sono come bambini che si credono grandi. Quanto ai ruffiani, stanno diventando un vero esercito. Infine, i quacquaraquà, il branco di oche. Dopo l'immaginazione e la letteratura, appunto, la storia si consegna ai tribunali. E il risultato è questo. No al risarcimento di 250.000 euro chiesto da... Da lui, dal capo dello Stato, alla ristampa di Da cosa nasce cosa. Dunque un no, eppur epurato dalle frequentazioni mafiose del vecchio Mattarella, il libro non esce. Ma neppure Piccioli dovrà cavare fuori dalle tasche Alfio Caruso. E qui la gatta si mostrò al fine pelata, perché la pubblicazione sul sito internet di Longanesi di una semplice avvertenza si avventura poi in una puntualizzazione, cioè l'estraneità degli attori da qualsivoglia contiguità con ambienti mafiosi. Attenzione, l'estraneità dunque di Sergio, di Maria e di Bernardo Juner, proprio per tacer del senior. Beh, una storiona siciliana, tutta siciliana, ma però, anche italiana, il Quirinale, importante. Molto Quirinale. Assolutamente. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta 800 24. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Salta il confronto tra industriali e sindacati per riscrivere le regole sui contratti. Si apre così la strada ad un probabile intervento per legge su un argomento tradizionalmente riservato agli accordi tra le parti sociali. Per noi è un capitolo chiuso, annuncia il presidente di Confindustria Squinzi. Mi sembra che le posizioni del sindacato siano prima di tutto irrealistiche, soprattutto sul piano monetario, e secondo, siano irrealistiche per sul futuro del nostro paese. Ci siamo resi conto assolutamente dell'impossibilità di portare avanti qualunque trattativa con il sindacato. Non abbiamo margini di manovra per poter proseguire un contratto, un colloquio sui contratti nel modo tradizionale. Quindi per noi è chiuso. Dottoressa Marcella Panucci, direttore generale di Confindustria. Ecco, le parole di Squinzi sono l'ultimo capitolo di una storia? Noi avremmo voluto che fosse il primo di un'altra, ma evidentemente non mi pare, ci abbiano dato alternative, quindi direi di sì. E quindi finiscono qui i rapporti sindacali stile 1900? Ma noi i rapporti stile 900 li avevamo già chiusi con una nuova stagione, che era quella che avevamo inaugurato con l'accordo della rappresentanza, quindi i rapporti del 2000. E evidentemente c'è chi ancora non si è adeguato a questo nuovo tipo di rapporti. Senta, ma all'Air France per esempio si è arrivati alle botte, siamo su quella strada, abbiamo visto manager seminudi scappare. No, guardi, mai, spero proprio di no, la violenza non è mai una risposta, e comunque visto che ci avviciniamo all'anniversario della marcia dei 40.000, la marcia dei 40.000 è stata una risposta molto chiara alla violenza. Io penso che l'Italia da questo punto di vista sia diversa dalla Francia. Ecco, spero. Ma senta, ma è meglio una regolamentazione per legge che un accordo fra le parti? Io in genere, non soltanto nel campo sindacale, preferisco sempre gli accordi, però anche qui gli accordi si fanno in due. Ma questa è una sconfitta per tutti, però alla fine anche per voi. Una sconfitta anche per noi sicuramente, ma non l'abbiamo voluta noi. Grazie, questo l'abbiamo detto, è l'ultimo capitolo per ora di una lunga storia, una storia importante, è una data importante di questa storia, il 14 ottobre dell'80, la marcia dei 40.000, la vittoria dei colletti bianchi della Fiat sugli operai, qui a Mix 24, il giallo di quel giorno dopo il giornale radio. E con il professor Roberto Bernabei, come al solito, commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. Annals of Internal Medicine, 15 settembre 2015. Combinazione di dieta ed attività fisica per la prevenzione del diabete in persone con aumentato rischio di malattia. Allora professore, questo studio ci dice che contro il diabete attività fisica è buona alimentazione? Ma intanto sappiate che ormai il 10% della popolazione ha il diabete, e questi numeri sono destinati a raddoppiarsi nei prossimi 25 anni. Quindi pensate, il 20% di chi nasce avrà il diabete, è una roba importante. Allora, alcuni diabetologi si sono posti il problema se sia preferibile limitarsi a una raccomandazione, cioè dire guarda che devi essere attento con la dieta, mangiare cibi con scarso contenuto di zucchero, devi fare esercizio fisico, oppure se era fondamentale, o meglio, prevedere dei programmi specifici di attività fisica e un counseling settimanale che rivedesse la dieta di questa persona. E si è visto, come è ovvio, che seguire le persone direttamente, fargli fare l'esercizio fisico, controllare la dieta rigorosamente, diminuisce del 40% la comparsa di diabete, normalizza la glicemia e migliora i parametri metabolici come l'ipercolesterolemia e la pressione arteriosa. Tutto questo ha un costo, certamente. Tutto questo si è visto che costa $650 a programma, ma ne fa risparmiare quasi 14.000. Quindi della serie, chi più spende meno spende, vale anche non solo per l'abbigliamento, per le vacanze, per la qualità della vita, ma vale anche per il vostro metabolismo e il vostro diabete. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS pubblicità.